come stai, come ti va, parliamo un po', io sono qua. Strana la vita di questa città, non so se andare o restare, ma ancora ci provo, poi si vedrà. Poi lontano vorrei andare, ma farsi una ragione è molto dura, sai. Guarda la pelle, un lavoro ce l'ho, o dimmi se preferisci che vengo da te. Sto preparando un video nuovo, ci suonerò in un ultimo brano. Suonerò qualcosa, io farò, sono stanco ma continuerò, sogno avere qualcosa che brucia dentro me. Ce l'ho di una band, poi suonerò qualcosa, cosa io farò.